Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Due uomini sono seduti su un amplificatore Marshall e osservano dal palco il campo da gioco ormai deserto di uno degli stadi più famosi del mondo. La fresca brezza di luglio colpisce il loro viso, mentre in silenzio sorseggiano una birra ghiacciata. Il luogo dove per tutta la giornata gli altoparlanti hanno pompato musica a volume altissimo non è mai stato così calmo e silenzioso. Il cielo è stellato. Non capita spesso di vederlo un cielo così a Londra. Io conosco il canto dell'Africa, della giraffa e della luna nuova africana distesa sul suo dorso, degli aratri nei campi e delle facce sudate delle raccoglitrici di caffè. Ma l'Africa conosce il mio canto. Karen Blixen descrive con maestria il continente africano nel celebre bestseller La mia Africa. Ma l'Africa di cui vogliamo parlarvi oggi è quella più triste, quella che vive di stenti, che muore ogni giorno negli occhi di un bambino affamato, che soffre per l'indifferenza dei paesi ricchi e industrializzati. In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. All'inizio degli anni Ottanta, l'Etiopia viene colpita dalla più grande carestia degli ultimi due secoli. In un paese già provato da guerre intestine e povertà, la mancanza d'acqua non fa che aggravare ulteriormente una situazione già disperata. La BBC, la televisione di Stato britannica, trasmette nell'ottobre dell'84 un breve documentario in cui viene descritta la situazione agghiacciante in cui vivono le popolazioni locali. Un uomo sta in silenzio davanti alla televisione e osserva, con lo sguardo fisso allo schermo, le immagini di bambini con gli occhi socchiusi allo stremo delle forze, tenuti tra le braccia da genitori che ormai hanno perso la speranza. Sul volto di quest'uomo scorre una lacrima. Anche lui conosce la sofferenza, anche se quella che sta guardando in TV non è di certo paragonabile. È irlandese ed è cresciuto tra soldati, bombe e odio tra popoli consanguinei. Il suo nome è Bob Geldof. Bob Geldof. Bob Geldof si distingue sin dagli inizi della sua carriera per l'impegno politico. Con il suo gruppo, i Boomtown Rats, ottiene un notevole successo, raggiungendo per ben due volte le vette della classifica inglese, e nel 1982 è protagonista del film musicale The Wall, il capolavoro dei Pink Floyd. È lui, quel giovane uomo che davanti a un documentario della BBC viene profondamente toccato nell'animo. Toccato a tal punto che la mattina dopo, di buon mattino, si precipita negli uffici della sua casa discografica, la Polygram, e chiede che tutte le royalties derivanti dalla vendita del suo ultimo singolo vadano in beneficenza per l'Etiopia. Quando dissi questa cosa mi risposero con una punta di sarcasmo che certo era un bel gesto, ma che se fosse stato un singolo di Phil Collins o Boy George probabilmente in Africa sarebbero stati più contenti. Io risposi: non c'è problema, canterò insieme a loro una nuova canzone e faremo un sacco di soldi. Con l'irruenza tipica degli irlandesi, afferra il primo telefono disponibile su una scrivania e compone il numero di telefono di Midge Ure, voce solista degli Ultravox e suo grande amico, chiedendogli di aiutarlo a comporre una canzone per uscire con un singolo il prossimo Natale. Mi chiamò un pomeriggio e mi disse di questo suo progetto per l'Etiopia. Conosco Bob da molti anni e so che quando si mette in testa una cosa non c'è verso di fargli cambiare idea. E comunque l'idea era buona e così due giorni dopo gli consegnai il testo della canzone e componemmo la musica. Con la sola forza della persuasione e con l'aiuto di un telefono, in poco più di un mese Bob Geldof riesce a compiere un'impresa impossibile. Il 25 novembre del 1984 riunisce in uno studio londinese tutti i principali cantanti della musica britannica, da Boy George ai Duran Duran, da Phil Collins agli Spandau Ballet. Tutti sono coinvolti nel progetto organizzato da Geldof e tutti partecipano senza pretendere un singolo penny dall'operazione. Il giorno seguente la canzone viene lanciata da Radio BBC One e una settimana dopo debutta nelle classifiche inglesi direttamente al numero uno della classifica dei singoli. Quando feci l'intervista alla BBC, mi bastò dire che il costo di una singola vita in Africa era di una sterlina e 35. Il costo del disco. Non mi importava che la gente amasse o odiasse la canzone. Una volta acquistato il disco potevano anche romperlo, gettarlo, bruciarlo. L'importante per me era che l'avessero comprato. A una sola settimana dalla prima programmazione in radio, il singolo Do They Know It's Christmas diventa uno dei singoli più venduti nella storia della musica inglese. In poco più di un mese, Bob Geldof, con il solo aiuto della sua segretaria Marsha Hunt, riesce a riunire in un unico luogo tutte le star del pop britannico, come ricorda lei. Bob è incontenibile, i suoi modi sono scortesi, possono sembrare antipatici, ma per lui esiste solo l'obiettivo da raggiungere, il resto sono soltanto dettagli inutili. Nello studio londinese si incontrano per la prima volta tra loro Phil Collins e Simon Le Bon, David Bowie e Boy George, e tutti si sentono coinvolti in un progetto fantastico che rappresenta una novità assoluta nel mondo della musica. Il disco raccolse più di 8 milioni di sterline, entrò in classifica negli Stati Uniti quando ormai Natale era un ricordo e ritornò nelle classifiche inglesi nel Natale successivo. Malgrado il grandissimo successo delle vendite e l'enorme cifra raccolta, Bob Geldof si trova però ad affrontare una prova che non si sarebbe aspettato. La stampa, commentando il successo del disco, si chiede però come mai Geldof non sia mai stato in Africa di persona, per assicurarsi che i fondi raccolti vengano spesi effettivamente per sfamare la popolazione affamata. Per me non è mai stato importante apparire in prima persona. In Africa ci dovevano andare i soldi e il mio biglietto aereo sarebbe stato solo uno spreco. Alla fine fui convinto ad andare, a patto che i giornali donassero la stessa cifra necessaria per pagarmi l'aereo. Il viaggio in Etiopia lascia Bob Geldof completamente traumatizzato per la reale situazione in cui la popolazione inerme si trova. In lui cresce la convinzione che il lavoro fatto fino a questo momento rischi di diventare una goccia nel mare dell'indifferenza. È per questo che una notte si sveglia di soprassalto con un'altra grande idea, ma è un'idea che non può realizzare da solo. Il mondo della discografia si basa su poche precise regole. Qualcuno scrive una canzone, qualcun altro la canta, la casa discografica distribuisce il disco. Un elemento importante del meccanismo è costituito dall'esecuzione dal vivo della canzone. Molti artisti rendono molto di più dal vivo, durante i concerti, piuttosto che in sala di registrazione. Ecco perché il lavoro del promoter, cioè colui che si occupa dell'organizzazione di concerti ed eventi, richiede spesso altissimi livelli di professionalità. L'agenda di un promoter contiene i numeri di telefono privati di tutti i cantanti, manager, discografici che contano. E un bravo promoter deve essere uno psicologo, un mediatore, a volte anche un padre per alcuni artisti, e soprattutto deve avere un forte senso degli affari. All'aeroporto di Heathrow, quello che viene considerato uno dei più abili promoter inglesi, sta per essere avvicinato da un testardo irlandese di ritorno dall'Etiopia. Il suo nome è Harvey Goldsmith. Harvey Goldsmith inizia a organizzare feste e piccoli concerti durante gli studi universitari a Brighton e in poco tempo acquista quella credibilità e professionalità tali da renderlo uno dei promoter più seri e affidabili del Regno Unito. Anche se è un lavoro duro, come sottolinea lui. È un lavoro duro. A volte ci vuole un anno di trattative per portare qualcuno a fare un concerto dal vivo. I rischi e gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Una sua caratteristica, che lo rende diverso dai suoi colleghi, sta nel fatto che ad Harvey piace anche dedicarsi all'organizzazione di cosiddetti charity events, quegli eventi che hanno lo scopo di raccogliere fondi per una finalità prestabilita. Un giorno, Harvey Goldsmith entra nella sala lounge dell'aeroporto di Heathrow con i suoi collaboratori. Da una poltrona si alza improvvisamente Bob Geldof, che gli viene incontro con il suo sorriso un po' stralunato. Goldsmith lo saluta cordialmente, facendogli i complimenti per gli ottimi risultati ottenuti con il singolo di Natale. Tutti ne parlano e Geldof ringrazia. Immediatamente ricorda all'uomo che gli sta davanti con molta naturalezza, senza pensare a chi ha di fronte, quanto sia difficile la situazione in Etiopia e gli spiega quanto sia rimasto impressionato dal viaggio appena concluso. E come ricorda Goldsmith, è lui a fornire l'occasione perché quell'incontro non rimanga una coincidenza, ma si trasformi in un destino. Incontrai Geldof all'aeroporto. Mi disse che era appena rientrato dall'Etiopia e che era rimasto molto traumatizzato. Gli dissi che se avesse avuto bisogno di qualcosa, avrebbe dovuto semplicemente chiamarmi. Geldof non ci pensa due volte e una mattina chiama l'ufficio di Goldsmith chiedendo un incontro per parlargli di un progetto che può cambiare il mondo. Harvey Goldsmith conosce il mondo degli artisti. Sa quanto alcuni di loro possano essere eccentrici e di storie capaci di cambiare il mondo ne ha sentite a centinaia. Ma sa anche che spesso le intuizioni geniali vengono fuori all'improvviso e decide di dare una chance a Bob Geldof. Forse anche perché dopo il successo di Natale, Mr. Geldof, come lo chiamano tutti, ha acquistato una grande credibilità anche presso le istituzioni politiche. L'appuntamento è fissato per i primi di aprile a Londra. Intanto, sulla scia del successo del singolo di Natale, anche il mondo della musica americana, capitanata da Michael Jackson e Quincy Jones, si ritrova in uno studio di registrazione per incidere un disco che passa alla storia come uno dei più venduti in assoluto nel mondo. Sotto il nome USA for Africa, 45 tra i più famosi cantanti degli Stati Uniti, tra cui Bruce Springsteen, Tina Turner, Stevie Wonder e Ray Charles, incidono il singolo We Are the World. Tra loro c'è anche un testardo irlandese, unico europeo a partecipare al progetto, che ne approfitta per farsi un sacco di amici anche dall'altra parte dell'oceano. Bob Geldof, sempre accompagnato dalla sua segretaria personale Marsha Hunt, si presenta negli uffici della Harvey Goldsmith Entertainment in una fresca mattina di aprile. Non è necessario perdersi in tanti giri di parole per Geldof. Il progetto è semplice da spiegare. Una data, due stadi, uno a Londra e uno a New York. Centinaia di artisti che suonano in concerto per 24 ore, passandosi il testimone in contemporanea. Una raccolta fondi di un giorno intero per smuovere la coscienza globale e riunire tutta l'umanità sotto un'unica bandiera, quella della musica. Ecco come lo ricorda Goldsmith. Beh, sembrava una pazzia. Organizzare un concerto con decine di artisti è già complicato, ma due. E poi in così poco tempo. Era una follia. Eppure, la convinzione di Bob mi fece saltar fuori quel senso di eccitazione per una sfida impossibile che non credo di aver mai più riprovato. La data prevista per questo evento è il 6 luglio 1985, a meno di 3 mesi dal loro incontro. Goldsmith chiede a Geldof se ha già avuto qualche adesione e Geldof fa i nomi di Sting, Phil Collins e buona parte degli americani con cui ha cantato We Are The World. Nessuno di loro però ha firmato un contratto. Sono un bugiardo a fin di bene. Quando spiegai a Harvey che avevo avuto già l'ok da parte di alcuni cantanti, beh, non era proprio così. La loro disponibilità andava verificata con le case discografiche, i loro promoter, i precedenti impegni, insomma, era tutto un gran casino. Harvey e Bob iniziano la prima di una serie interminabile di discussioni. Goldsmith è un uomo d'affari, sa che la parola di un artista non vale niente finché non c'è un accordo firmato e definito. Goldsmith non è per niente sicuro di riuscire in questa impresa titanica, considerando che tutto il progetto di Geldof si basa sul principio indiscutibile che nessuno, senza eccezioni, deve guadagnare un singolo penny da questa operazione. Era pazzesco. Rischiavo di mettere a repentaglio la mia reputazione e tutto quello per cui avevo lavorato per anni. Eppure, vedere Bob così convinto del suo progetto mi fece venire voglia di dargli una possibilità. Così gli dissi che se solo mi avesse portato le firme di 3 o 4 dei nomi che mi aveva promesso, gli avrei organizzato il concerto a Wembley. Lo stadio di Wembley, costruito nel 1924 e inaugurato dal re Giorgio V, è stato per quasi 80 anni il tempio del calcio inglese. Demolito nel 2003 e ricostruito completamente, fino al 1985 non ha mai ospitato un concerto musicale. Per i londinesi e per l'Inghilterra intera, è un simbolo. Pochi giorni dopo aver incontrato Goldsmith, Bob Geldof partecipa a un evento televisivo durante il quale ha occasione di incontrare Margaret Thatcher, il primo ministro inglese, la Iron Lady, che solo 3 anni prima ha vinto con fermezza la guerra delle Falkland contro l'Argentina. È la stessa Lady di Ferro ad avvicinarsi a Geldof, complimentandosi per l'ottimo lavoro svolto nella realizzazione del disco di Natale. Per tutta risposta, Bob Geldof, in modo deciso, chiede al primo ministro il motivo per cui il governo non abbia voluto donare anche la quota dell'IVA sul ricavato delle vendite del disco. Messa alle strette, la signora Thatcher cerca di giustificarsi con Geldof, rispondendo che a volte le cose non sono così semplici come sembrano. Stavo guardando la TV ed era impressionante come Bob, con la sua aria semplice e trasandata, fosse riuscito a mettere in difficoltà la Thatcher. Diamine, quando lei disse che le cose non erano così facili come sembravano, lui rispose semplicemente che niente era più facile che morire di fame e che questo era l'unico problema da risolvere. La lasciò senza parole. Il giorno dopo, negli uffici della Harvey Goldsmith Entertainment, viene organizzata una stanza piena di telefoni e scrivanie, con un grosso pannello diviso in due con scritto Wembley e New York e una lista di artisti e cantanti scritta in rosso. Riscrivere ogni nome con un pennarello blu significa avere ottenuto l'ok definitivo alla partecipazione al concerto. In un angolo della stanza c'è una scrivania anche per Bob Geldof. Il lavoro per l'organizzazione del Live Aid è iniziato. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Destini incrociati. Destini incrociati oggi vi sta raccontando come l'incontro tra un distinto signore inglese e un testardo irlandese ha dato vita al più grande evento musicale di tutti i tempi, il Live Aid. Le difficoltà iniziarono quasi subito. La data fissata per il 6 luglio era abbastanza vicina, ma l'ostacolo più grande che bloccava l'adesione dei cantanti da parte delle case discografiche era la copertura televisiva. Harvey Goldsmith inizia a tessere la rete organizzativa che deve lavorare sia sul concerto di Londra sia su quello americano. Malgrado le prime difficoltà, alla fine la ABC americana e l'inglese Channel 4 garantiscono la loro disponibilità per la diretta dell'evento. Dopo aver avuto questa notizia, tutto fu più facile. Sting, Phil Collins, Elvis Costello e molti altri cominciarono a dare la conferma. Uno dopo l'altro, i nomi sulla lavagna scritti in rosso vengono cancellati e riscritti con il pennarello blu. Ci sono però due nomi ancora non confermati. Sono due nomi importanti, Paul McCartney e Bruce Springsteen. Con Springsteen avevo parlato telefonicamente e lui mi aveva detto che se non ci fossero stati altri impegni avrebbe sicuramente partecipato. È solo che poi una notte mi chiamò dal New Jersey e mi disse che per lui il 6 luglio sarebbe stato impossibile partecipare. Avrebbe potuto solo la settimana dopo. Quando Geldof entra nell'ufficio dove tutti sono impegnati a telefonare e si butta a sedere sulla sua sedia, Goldsmith ha già intuito che Springsteen ha dato una risposta negativa e cerca di consolare Geldof. Bob stava lì con gli occhi bassi e non diceva nulla. Allora gli dissi che in fondo si poteva anche fare a meno di Springsteen. Mi rispose con quell'espressione tipica del bambino beccato con le dita nella marmellata che Springsteen aveva dato disponibilità per il 13 luglio e che lui gli aveva detto che andava bene. Andai su tutte le furie. C'è voluto un mese per avere la conferma di 14 artisti per la data del 6 luglio e improvvisamente la data viene spostata di una settimana solo per accontentare Bruce Springsteen. Negli uffici di Londra, ancora oggi, si ricordano della memorabile discussione tra Geldof e Goldsmith, delle porte chiuse in faccia, di Goldsmith che cancella tutti i nomi della lavagna e getta addosso a Geldof il cancellino. Ogni progetto sembra improvvisamente svanire. O forse no, come ricorda Marsha Hunt. Bob è fatto così. Dopo tanti anni passati a lavorare insieme, ho imparato a capire che per lui nessuna difficoltà è insormontabile quando si vuole ottenere qualcosa. Alla fine anche Harvey Goldsmith deve arrendersi all'evidenza. Se Bob Geldof decide una cosa, non c'è modo di fargli cambiare idea. La data del Live Aid diventa quindi il 13 luglio e lentamente gli artisti già confermati danno la loro disponibilità per la nuova data. La motivazione maggiore arriva sempre da Geldof, che con il suo tipico accento irlandese riesce a convincere tutti dicendo che in fondo si tratta di un semplice gesto d'amore e non c'è scusa che tenga per non partecipare. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. Manca circa un mese al 13 luglio, la data stabilita per il più grande concerto del secolo, come comincia a definirlo la stampa britannica. Tuttavia le difficoltà non sembrano finite. Negli Stati Uniti, per esempio, il concerto viene spostato da New York a Filadelfia, forse perché comunque non si crede ancora all'impatto mediatico che potrà avere. La stessa rete televisiva ABC, che garantisce la copertura, dirotta su un gruppo di televisioni locali la diretta del concerto, mantenendo per sé solo la trasmissione delle ultime tre ore. Ma una tegola ancora più grande si abbatte sugli uffici della Harvey Goldsmith Entertainment. A meno di un mese dal concerto, Channel 4 si tirò indietro, dicendo che lo sforzo economico a cui stava andando incontro era troppo elevato e non era riuscita a trovare gli sponsor per coprire l'intera richiesta. Tutto lo staff che sta organizzando il concerto lavora gratuitamente. Gli artisti partecipano senza compenso, ma ovviamente ci sono alcuni costi che sono necessari allo svolgimento del concerto che devono essere coperti con la raccolta derivante dalla vendita degli spazi pubblicitari durante la diretta. Ecco perché la rete americana ABC deve rinunciare a trasmettere alcune esibizioni per mandare in onda i break pubblicitari. La rinuncia da parte di Channel 4 può mettere a rischio l'intero concerto. Ma Bob e Harvey non ci stanno. A questo punto ci restava soltanto una cosa da fare: andare a parlare con la BBC. Era sicuramente un'impresa disperata, ma conoscendo Bob avevo capito che nulla può essere considerato impossibile. La BBC è la televisione di Stato britannica. La caratteristica principale che la distingue dagli altri canali è la totale assenza di pubblicità. Questo significa che, non essendoci possibilità di recuperare i fondi necessari per l'organizzazione dell'evento, il costo deve ricadere interamente sullo Stato, che in questo modo dà il suo completo riconoscimento istituzionale al concerto. Anche questa volta, qualche bugia detta a fin di bene può salvare il progetto. Bob e Harvey incontrarono i responsabili della BBC il venerdì. Harvey non disse quasi niente, parlò solo Bob, raccontando che Channel 4 era interessata, che Stevie Wonder, i Queen, anche Paul McCartney avevano già confermato la partecipazione. Insomma, come al solito, raccontò un sacco di balle. Il nome che fa più effetto tra i dirigenti della BBC è quello di Sir Paul McCartney. Il più importante esponente della musica britannica manca dalle scene da 6 anni e troppe volte ha rifiutato di partecipare a programmi televisivi e a concerti. La BBC non sa che Bob Geldof sta cercando di contattarlo da 2 mesi senza successo. La telefonata arriva negli uffici di Goldsmith lunedì mattina. La BBC ha deciso di garantire la diretta radiofonica e televisiva per tutto il concerto. 18 ore di diretta, uno sforzo mai affrontato prima. Pare che l'autorizzazione definitiva arrivi direttamente da Downing Street. Alla fine, anche la Lady di Ferro, Margaret Thatcher, ha capito quanto possa essere importante l'evento e concede la televisione di Stato a quell'irlandese tanto tenace da tenerle testa. La BBC disse di sì, perché gli avevamo detto che tutti i grandi nomi erano confermati. Per fortuna, un po' alla volta tutti dissero di sì. Ne mancava solo uno, però era sicuramente il più importante, Paul McCartney. Geldof riesce finalmente ad avere un incontro con l'ex Beatle nella sua tenuta di campagna. Paul si dimostra molto sensibile nei riguardi dei problemi che l'Etiopia sta attraversando, ma a un certo punto si confida con Geldof. Sono 6 anni che non sale su un palco per cantare dal vivo. Ha paura. Teme di non essere all'altezza per cantare davanti a uno stadio pieno di persone. Geldof ha sempre la risposta pronta. La gente si aspetta di vedere anche lui sul palco e la sua sola presenza garantirà un numero maggiore di donazioni. Basterà cantare al pianoforte Let It Be. Bob entrò in ufficio in silenzio. Si avvicinò alla lavagna, cancellò il nome rosso di Paul McCartney e lo riscrisse in blu. In ufficio tutti applaudirono, era incredibile. Quel dannato bugiardo ce l'aveva fatta. 13 luglio 1985. È una splendida giornata di sole al Wembley Stadium di Londra. A mezzogiorno in punto, come da scaletta, il primo gruppo sale sul palco con l'onore di aprire il concerto del secolo. È stato chiesto a Geldof di farlo con i suoi Boomtown Rats, ma ha rifiutato. Non vuole gloria da questa giornata. Per lui c'è tempo più avanti per esibirsi. Devono essere gli Status Quo ad aprire il concerto. La loro canzone, Rockin' All Over the World, non può dare un messaggio migliore. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo vivendo l'organizzazione del più grande evento musicale del secolo e la storia delle due persone che con tenacia stanno portando a termine la loro missione: unire il mondo sotto un'unica bandiera. Quella della musica. C'erano 72.000 persone a Wembley, 90.000 a Philadelphia, collegamenti con Sydney, Mosca, Buenos Aires, Tokyo, tutto il mondo era collegato. Uno dopo l'altro, gli artisti si avvicendano sul palco, eseguono da una a tre canzoni, poi lasciano spazio all'artista successivo. Il tutto coordinato dallo staff di tecnici di Goldsmith, che nei giorni precedenti ha provato e riprovato i cambi di attrezzatura scanditi dal cronometro. Non c'è tempo per l'errore. Dietro le quinte, intanto, la BBC ha allestito una sala stampa dove i conduttori televisivi incontrano i vari artisti e lanciano ripetuti appelli per invitare la gente a donare quanto più possono. Alle 12.44 sale sul palco Bob Geldof con i suoi Boomtown Rats. Bob appare letteralmente sfinito, anche se la giornata è appena cominciata, a causa dei 3 mesi di incessante lavoro. La sua canzone I Don't Like Mondays viene cantata da tutto lo stadio. Fu incredibile. Voglio dire, ci sono stati artisti che si sono esibiti quel giorno, me compreso, che non avevano mai cantato davanti ad uno stadio così pieno di gente, e credo che ognuno di noi l'abbia vissuto come un momento storico. Uno dei momenti più memorabili è sicuramente l'esibizione dei Queen. Freddie Mercury sale sul palco con la sicurezza di chi affronta una battaglia e senza avvisare nessuno comincia a duettare con il pubblico. Sulle note di Radio Gaga, 72.000 persone battono all'unisono le mani, creando un effetto mai visto prima. Lo stesso Harvey Goldsmith ricorda di non avere mai visto niente di simile. Incredibile, letteralmente incredibile. La folla si muoveva in un unico battere di mani, tutti con le braccia alzate. Credo sia stato in assoluto il momento più emozionante della mia carriera. La squadra di tecnici organizzata da Goldsmith lavora in modo instancabile e considerando il numero di artisti e la velocità dei cambi di scena, tutto fila liscio. Le esibizioni si alternano con lo stadio di Philadelphia, dove il concerto è iniziato alle 10 del mattino. Phil Collins, grazie a un Concorde messo a disposizione da un amico, si esibisce a Londra e poi vola in America, dove canta di nuovo. Il mondo è sintonizzato su un'unica radio globale. Stiamo vivendo le ore del concerto più famoso del mondo, il Live Aid. Dietro le quinte, Harvey Goldsmith continua a coordinare i suoi uomini che uno dopo l'altro accompagnano sul palco i vari artisti per la loro esibizione. Intanto però Marsha Hunt, la segretaria di Bob Geldof, scende trafelata dalla sala stampa per cercare Bob. Sembrava impossibile, ma ci accorgemmo che le donazioni stavano subendo un rallentamento. I funzionari della BBC mi dissero di andare a chiamare Bob. Era necessario che apparisse ancora una volta in TV per chiedere aiuto al suo pubblico. Beh, in questo caso al mondo intero. Bob Geldof è seduto accanto al commentatore della BBC che comunica i numeri di conto corrente a cui inviare le donazioni e improvvisamente pronuncia un fin troppo accorato appello al mondo intero. Gotta get on the phone and take the money out of your pocket. Don't go to the pub tonight, please. Stay in and give us the money. There are people dying now, so give me the money. What the fuck? We've got satellites, we've got spaceships. E che cavolo? Avevamo il Concorde, avevamo gli artisti e voglio dire, c'era quella odiosa sensazione di essere fuori da tutto, il bel teatrino del Teleton, fate la carità, ma andiamo, state zitti. Basta con le chiacchiere inutili. Dite al mondo di darci i soldi. Shut up. L'irruenza di Geldof fa aumentare le donazioni fino a 20.000 sterline al minuto e fa nascere la leggenda metropolitana che lui abbia detto una parola di troppo. Give us your fucking money. Give us your fucking money. Give us your money. Give us your fucking money now. Give us your fucking money. And it was brilliant. And everyone came, yes, yes. So it forever will be. Per tutti rimase vero che io dissi datemi i vostri fottuti soldi e questo resterà il mio sfortunato dono alla nazione. Ma non lo dissi. You know, so but I didn't say it. Stay in and give us the money. There are people dying now, so give me the money. Sono quasi le 10 di sera a Wembley. La giornata è stata lunghissima e ormai si va verso il gran finale, almeno per il concerto di Londra. Alle 21:50 sale sul palco il più importante cantante inglese di tutti i tempi, Paul McCartney. Quasi per uno scherzo del destino, nel momento in cui fa il suo ingresso sul palco e saluta la folla in delirio, un tecnico, nello spostare il pianoforte a coda, stacca lo spinotto del microfono. In tutto il giorno non è mai successo. Quando l'ex Beatle comincia a cantare, non si rende conto che il suo microfono non funziona e che il pubblico sente solo il suono del pianoforte. Continua a cantare per un minuto in queste condizioni, ma nessuno si accorge dell'errore. Infatti, tutto lo stadio di Wembley, con un'unica grande voce, canta Let It Be al posto di Paul. E quando il microfono viene riattaccato, l'entrata di McCartney sembra addirittura voluta. Sono ormai le 2 del mattino a Wembley e lo stadio è deserto. Sul campo di calcio rimangono i segni delle 72.000 persone che hanno trascorso la loro indimenticabile giornata. I dati ufficiali confermano che il Live Aid ha raccolto 150 milioni di sterline e ha permesso di creare una fondazione che ancora oggi, a distanza di quasi 30 anni, continua a portare aiuti in Africa. Bob Geldof e Harvey Goldsmith sono seduti su un amplificatore Marshall e stanno sorseggiando una birra ghiacciata. Non si accorgono neanche di quanto siano stanchi dopo 3 mesi di incessante lavoro. Osservano il campo illuminato, si guardano e si scambiano un sorriso. Bob guarda il cielo stellato, non lo ha mai visto così bello. Harvey pensa che quel dannato irlandese si sia comportato da eroe.